l'eco del silenzio. Silenzio. Un'idea di Lucia Cappellucci. Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Lucia Cappellucci, questo è l'eco del silenzio e siamo su Radio Libriamoci Web. Quella di oggi avrebbe dovuto essere una trasmissione come le altre, fatta di notizie e articoli di giornali o blog, e fatta anche di festeggiamenti, perché il 18 di maggio sono 2 anni che l'Eco del Silenzio esiste nella sua versione radiofonica. Doveva essere tutte queste cose, ma non lo sarà. Non può esserlo. Non lo sarà perché ritengo che dopo che quello che è accaduto sabato a Brindisi sia giusto e doveroso parlarne. Non lo sarà perché stavolta ho bisogno di dare voce ai miei pensieri, di esserci virtualmente con il mio nome, cognome e voce, così come sono stata realmente in piazza, sabato pomeriggio dalle 18:30, assieme a tanti altri. A Brindisi è successo qualcosa di enorme e inimmaginabile, qualcosa che in Italia non si era mai verificato. Hanno attaccato una scuola, hanno ucciso e ferito delle studentesse, hanno aggredito in un colpo solo un luogo di cultura e dei giovani, vale a dire la nostra speranza per il futuro. Le teorie su chi abbia compiuto un'azione così mostruosa stanno spopolando in televisione come nel web, o per strada fra la gente, alimentate da un vago senso di inquietudine, paura e da un profondo senso di ingiustizia, oltre che di precarietà. Questo gesto sta venendo comunemente definito bestiale. E mi infastidisce non poco, dato che nessun animale potrebbe mai progettare con altrettanta crudeltà di nuocere a un suo simile. Queste sono prerogative esclusivamente dell'uomo. Ripeto, le teorie su mandanti ed esecutori, nel caso i due ruoli non combaciassero, stanno fioccando. Si parla di mafia, Sacra Corona Unita, di antistato, terrorismo, complotti e massoneria. Ho sentito addirittura accennare a una possibile pista passionale, come se si potesse anche solo immaginare di accostare l'aggettivo passionale alla deflagrazione di quell'ordigno. Questa è. Fioccano le ipotesi e aumentano le frasi, e la confusione figlia della gente che si affretta a costruire teorie. L'unica verità presente ad oggi è che il 19 maggio, davanti all'Istituto Professionale Morvillo Falcone, esplosa una bomba, piazzata lì per nuocere, e che questa ha ucciso una ragazza e ne ha ferite altre 5. L'unica certezza è che una ragazza è stata dilaniata da una bomba. Ai mille come e agli infiniti particolari sull'ordigno, la sua collocazione, l'ora dello scoppio, a tutti questi, da cui saremmo sommersi nei prossimi giorni, vorrei si sostituisse un cosa enorme che luda i tecnicismi andando all'essenza, a quella giovane donna uccisa. Senza morbosità, senza foto trafugate dal suo profilo Facebook. Quando non si sa dove stia il carnefice, o chi sia, l'unico atto forte e significativo che si può compiere è quello di stare con la vittima. L'ha detto prima di me Camus e in modo molto più efficace, scrivendo: ho deciso di mettermi dalla parte delle vittime, in ogni occasione, per limitare il male. In mezzo a loro posso almeno cercare come si giunga alla terza categoria, ossia alla pace. Oggi e nei giorni a venire dovremo stare stretti attorno a quella famiglia in lutto, e anche fra di noi, perché l'unico modo per sopravvivere a simili orrori è quello di rinsaldare i rapporti, quello di esserci, uscendo dalle nostre case, abbandonando per qualche momento pixel e mondo virtuale per stare con gli altri. A Melissa va il mio pensiero. Lei è la vittima, lei, assieme alle altre ragazze. Fra gli argomenti di questa settimana avevo inserito il ventennale, il 23 maggio, della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti della Polizia di Stato, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Vittime, anche loro, come il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, e purtroppo tanti altri, di un qualcosa che 20 anni dopo non è stato ancora chiarito. Sappiamo tutto del luogo dell'attentato. Sappiamo chi ha premuto il telecomando collegato al detonatore. Sappiamo da dove arrivava l'esplosivo. ma ancora nessuno ci ha potuto dire da chi provenisse quell'ordine di morte. Lo sentite questo? Era del silenzio, qualcosa di radiofonicamente insensato, il silenzio della giustizia. È ancora più assordante. E dopo tutti questi anni è ancora più insensato. Vorrei poter leggere un giorno di quei mandanti. Vorrei poter arrivare a sentire la verità su cosa accadde quel giorno. E spero che anche i fatti di Brindisi trovino non solo il loro come, ma soprattutto un chi e un perché. È nostro dovere combattere la mafia e soprattutto la mentalità mafiosa ogni giorno come se fosse appena morto qualcuno e ci sentissimo il cuore e il cervello stretto dal dolore e dalla pena. È nostro dovere, quantomeno provarci, perché non possiamo ricordare le vittime e le stragi solo negli anniversari a cifra tonda o quando c'è un'associazione di parenti delle vittime che organizza qualcosa per strappare i loro cari dall'oblio in cui rischiano di precipitare. La mafia non è solo quella che uccide. La mafia siamo anche noi, quando taciamo o guardiamo da un'altra parte per non dover dire qualcosa di scomodo o impopolare. Non possiamo ignorare ciò che avviene in seno alla società di cui facciamo parte. Non possiamo chiudere gli occhi. Non aggiungiamo al silenzio insensato della giustizia. Il nostro silenzio quotidiano è apparentemente innocuo. Apriamo gli occhi. Soprattutto noi che siamo più giovani. E forse gli anticorpi dell'antimafia non li abbiamo ancora ben sviluppati. Non possiamo abbassare la guardia e soprattutto dobbiamo ricordare, lo dobbiamo a tutti quei servitori dello Stato che hanno dato la vita anche per noi. In tutto questo c'è una sola piccola nota positiva, e cioè che davanti a tanta desolazione, passata e presente, sia comunque stato positivo vedere immediatamente poche ore dopo tante persone in piazze diverse e in ogni angolo d'Italia, unite in una comune necessità di cordoglio e manifestazione di vicinanza a quelle ragazze ferite e alla famiglia della ragazza uccisa. È in queste giornate così difficili e dense che mi rendo conto di quanto veramente a fare la differenza e a poter salvare una società, sia la cultura e la capacità dei singoli che questa società compongono di saper leggere la realtà. E proprio per quanto vi ho appena detto, questa settimana più che mai, anche se ripeto, sono ormai 2 anni che esiste l'Eco e sono 2 anni che io vi rinnovo questo augurio, da Lucia Caparrucci per l'Eco del Silenzio, un grazie per questi 2 anni passati insieme e l'augurio di frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Caparrucci.